Ma ecco una delle prime chicche che andiamo a proporvi. Qualcuno sa che Dave Mustaine ha fatto parte della prima lineup dei Metallica, proprio dei Metallica. Una cosa particolare, perché poi a livello di pubblicazioni vere e proprie non se ne trova. No, sono rarissime, c'era soltanto dei demo, eccetera. Tra cui noi ne abbiamo trovato uno che viene pubblicato da questa etichetta con la collana di Metal Massacre. Ci sono stati 10 volumi e loro hanno praticamente scoperto e lanciato una marea di formazioni. Luca vuole parlare di questa etichetta. Sì, insomma, Brian Slagel è quello che ha fondato questa etichetta. Era semplicemente un fan di musica, di heavy metal, che scopriva comprando cassette, andando a un sacco di concerti, tanti gruppi. E a un certo punto lui incontrò un distributore mecenate, diciamo, che gli finanziò questa compilation, da cui nacque appunto la Metal Blade Records. Vogliamo fare due nomi? Beh, è un'etichetta che vive ancora tutt'oggi, esatto. È forse la più famosa etichetta metal pura degli States. Diciamo solo Slayer. Ma i Metallica perché? Perché fanno parte di questa compilation, il volume 1, con una formazione, naturalmente con Lars Ulrich, che insieme a James hanno fondato praticamente la band. Però, James qui cantava e basta. Naturalmente Lars suona la batteria. Poi c'è un chitarrista che si chiama Lloyd Grant, quindi... Si stia mangiando le mani ancora adesso. Sì, ma anche Mustaine mi sa, però vabbè. C'è Dave Mustaine alla chitarra. Esatto. Poi c'è un bassista che si chiamava Ron McGooney, che abitava in appartamento, condivideva l'appartamento con James, quindi era il suo bassista. La formazione quindi è James Hetfield voce, Dave Mustaine chitarra, Lloyd Grant altra chitarra, Lars Ulrich batteria, Ron McGooney basso. Hanno registrato questa versione di Eat the Lights con un 4 piste, quindi la versione che sentirete a livello di audio fa schifo, però sono i primissimi Metallica con Dave Mustaine. We'll be right back. Lights, Metallica. Tra parentesi mi accorgo che hanno sbagliato anche a stampare su questa copertina il nome di Metallica con due T, Metallica, poi all'interno non hanno stampato giusto, errori. 1982, Metal Blade Records, Hill Lights, la versione demo con James Hetfield, Dave Mustaine, Ron McGooney al basso, Lloyd Grant all'altra chitarra, Lars Ulrich alla batteria. Io poi li ho visti a Milano, supporter dei Venom, e ho avuto anche l'opportunità di intervistarli, ho anche la foto con Cliff Burton e proprio con Lars, e gli chiesi: ma il nome da dove deriva alla fin fine? Eh no, c'era un nostro amico che aveva una fanzine in America che si chiamava Metallica e ci ha dato fonte di ispirazione, e da lì abbiamo chiamato così la band Metallica. Siccome poi forse non si dice, ma va bene così, il prossimo personaggio magari lo rincontreremo diverse volte questa notte, sia con i Samson sia con gli Iron, e sto parlando di Bruce Dickinson. Io lui l'ho intervistato almeno 5-6 volte nell'arco della mia carriera da DJ, sia con gli Iron sia da solo. Qui lo abbiamo in una versione da solo, quindi fuoriuscita dalla formazione degli Iron. Era il tempo dell'album Tattoo Millionaire, registrazione dal vivo effettuata al famoso Astoria Theatre di Londra il 27 giugno del 1980. Anche lui si divertiva nei concerti a proporre delle cover, molto spesso riproponeva Sin City degli AC/DC, ma abbiamo scoperto anche questa. We'll be right back. l'avevo mai sentita, mamma mia, che versione proprio rozza, grezza, proprio diretta, proprio live, questa Black Knight con Janik Jarrett, tra parentesi, che faceva parte della sua band, poi se l'è portato dietro quando è appunto rientrato negli Iron. Questo è il gruppo di Bruce Dickinson con Black Knight dal vivo alla Astoria Theatre di Londra. A questo punto andiamo in Canada. E a questo punto sì, Marco, abbandoniamo l'Europa, l'Europa che contraddistingueva sia i Deep Purple, esatto, autori originali, e Bruce Dickinson, per andare in Canada. In Canada, dove c'è un gruppo, dove c'è una grande tradizione soprattutto di formazioni a tre, e questi ne sono un ottimo, validissimo esempio, se devo dire forse il mio preferito. Chi ascolta e chi mi segue al pomeriggio sa che ho un amore viscerale nei loro confronti. Tra l'altro hanno annunciato un po' a sorpresa anche un loro ritorno. Suoneranno sabato 7 giugno lo Sweden Rock di Sölvesborg in Svezia. Sarà l'unica data europea, ce ne sarà un'altra poi ovviamente in Canada, a casa loro, che sarà immancabile. Stiamo parlando chiaramente dei Triumph. In questa lunga notte dedicata all'hard rock e heavy metal, ve lo ricordiamo, ci stiamo spaziando tra questi due ambiti. Dalle 3 alle 4 ascolterete invece il versante più estremo, con il Brutal, con il... Brutal non so se... Brutal, no, è Brutal lui. Non è riferito alla musica, ah, no, ma al conduttore. A lui, ovviamente. Brutal, infatti. E in ogni caso, una lunga notte, questo speciale Hard and Heavy Nightmare. Non potevano mancare ovviamente i Triumph, e come al solito... perché già ve l'ho proposta, però non ho resistito alla tentazione di andare a rispolverare questo meraviglioso Thunder Seven, che è l'album in questione. La canzone, in effetti sono due le canzoni, sono unite, c'è una prima parte, un'introduzione completamente vocale, veramente da brividi. Ascoltatela, Time Cannon e Killing Time, i Triumph su Rock FM. Time, time, time, time, time, time, time, time, time. Time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time, time in Time, meravigliosa, meraviglioso brano dei Triumph. Come dicevo, Thunder Seven era l'album che siamo andati a recuperare ancora una volta. Ripeto, è una passione che non ho mai nascosto e che neanche questa sera ovviamente poteva mancare in questa lunga notte che stiamo trascorrendo insieme. Allora, a questo punto diamo l'ora, è 1:21, esatto, in questo sabato 17:22 siamo dal vivo, in diretta, questa Hard and Heavy Nightmare molto particolare. Cerchiamo di bilanciare la proposta sia metal, power, hard, glam, poi come avevamo detto ci sarà Luca con lo spazio più death. Però come dei bravi piloti, Marco, alterniamo la forza. Adesso freniamo un attimo, freniamo perché siamo partiti veramente a cannone e freniamo un attimino con un unplugged, ma un unplugged particolarissimo. Ve ne proporremo tre durante questa nottata, tutti e tre registrati da queste band nei nostri piccoli studi. No, beh, il secondo erano in un altro studio più grande, però questo qui solo voce e chitarra. Il gruppo si chiama e non esiste più perché si sono sciolti, esatto, poche settimane fa ufficialmente, sì, per la seconda volta in pratica quasi. Sì. Sì, sì. Stratovarius. Sì, direttamente alla Finlandia, una band che ormai non c'è più da poche settimane. Scusa un attimo, sì. Qui sotto c'è il rave party perché io sento pum pum pum con la musica dance. È molto probabile. No, perché tra un po' apro la finestra e allora facciamo sentire noi le nostre cose. Vabbè, alziamo comunque, il volume anche noi allora. Esatto. Ma questa forse non è la canzone. Questa non è la canzone adatta, però. Vabbè. Ok, stavi dicendo appunto Simone, sì, Stratovarius, che non esistono più adesso. Timo Tolkki, che è il leader, anche se non è il fondatore, ha creato un nuovo gruppo, uscirà tra poco tramite Frontiers il nuovo album. Sono i Revolution Renaissance, vabbè, ci sono diversi special guest, ma torniamo agli Stratovarius, che hanno avuto un grande successo nella loro a metà della loro carriera, quindi intorno alla fine degli anni 90, con album del calibro di Episode e di Visions. Parli di Visions, su Vision c'è? Sì, dove è Forever? Che è la loro più grande ballad. L'hanno fatta, qui c'è cantante e chitarrista, sono loro venuti nei nostri studi e hanno fatto il grande Cotipelto. Esatto, questa versione di Forever. You're gonna sit there? Yes. You have to sing with us. Okay, I will. All right. I can. Okay, I do it. The winter of my life came so fast. Memories go back to childhood. 2 days I still recall. No sorrow, there was no pain. Walking through the green fields, sunshine in my eyes. I'm still there, everywhere, on the dust, in the wind, on the star in the northern sky. I never stayed anywhere, on the wind, in the trees. Would you wait for me forever? Maybe. I never stayed anywhere, on the wind, in the trees. Would you wait for me, for questa è Claudia. Questi sono gli applausi di Claudia, è lei che li ha intervistati. Abbiamo voluto lasciare apposta anche all'inizio e alla fine il suo contributo per testimoniare che questa è stata registrata non in altre radio, non in altri club, ma qua nei nostri studi, senza sovraincisioni, senza nulla, non ci sono altre apparecchiature, un semplice microfono, voce e chitarra. E però diamo la correzione, appunto, che sì, la correzione è che l'album è episodio. Episodio, probabilmente è la musica del rave che mi ha distratto. Ok, era sotto il rave qua sotto nel locale. Bene, a questo punto l'unplugged, poi ve ne proporremo, come abbiamo detto, altri due. Salutiamo ancora gli amici che ci siamo persi, sono quasi una ottantina di sms in questa prima parte della nostra Arden, un'ora e mezza praticamente, già la 1:30, Max, ti rendi conto? Sì, sì. Sta volando letteralmente. È volata, ma abbiamo tante cose da farvi ascoltare. Tra l'altro la nostra regola, che di solito vale per le nostre giornate, i nostri programmi quotidiani, quella di non accettare regole, ovviamente anche per questa sera rimane valida, perché come vi dicevamo abbiamo preparato davvero tantissimo materiale e siamo certi di riuscire ad accontentare almeno in gran parte quello che volete ascoltare, quindi poi vedremo. Salutiamo rapidamente Ale da Genova che ci dedica la doppietta di stasera in campionato, grazie caro. Cipa dal taxi, mi ricordo le notti con Radio Peter Flowers, ovviamente questa coinvolge te, ma le ricordo. Grazie anche a Alessandro da Firenze che è con noi, Marco da Pisa, grazie ancora a Klaus, saluti a Bea, vi sto ascoltando con il mio pupazzetto vicino, va bene. Grazie a Laura e Luigi, siamo rimasti a casa proprio per il vecchio metal. E avete fatto bene, credo, visto che non ve lo faremo mancare. Grazie a Mad Matt, saluto Maurizio dalla Versilia, saluto Franz Max, ho abbandonato la PlayStation per voi e gli amici per voi. Bravo. Non male. Siete davvero la famiglia, Morloi ci scrive, grazie di tutto. A letto con il tendine d'Achille ricucito, fortunatamente il dolore mi tiene sveglio, così non mi perdo questa storica notte. Grande musica, grandi persone. Grazie, in bocca al lupo Michele da Genova per la tua condizione. Questo che sentite purtroppo sono i vostri sms che arrivano, sì. Noi siamo tutti ligi al dovere con cellulari spenti. La macchina che riceve, stasera stiamo utilizzando molti vinili, quindi è abbastanza normale. Grazie a Teno, saluti a Diego, grazie all'amica Ciale dalla nostra Rock Family, Obi da Firenze, vado rapidamente. E compie gli anni, quindi auguri, oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, esatto. Tanti auguri. Corna al cielo per Leo di Milano, mi fate svegliare tutto il quartiere, era un po' quello l'obiettivo, stiamo combattendo con un rave party qua sotto, esatto. Quindi figurati. Renato da Genova si chiede se ci saranno i Quiet Riot. Certo. Ci staranno. Grazie anche, veramente sapevo che la primissima versione Mustaine non c'era, che James suonava sia chitarra che basso, poi l'hanno riregistrata con Ron e Dave. Questa è una correzione che arriva da parte di Diego, ma la prendiamo come la prendiamo, perché quella è quella che poi è stata inserita nella. Grazie a Mara da Firenze, Alessandro da Firenze, ancora il Giba da Prato, Carolina da Genova, Elena e Matteo da Ravenna, Aldo da Lucca, Laura, grazie anche a te. Ciao Marco e Max, insieme a voi in questa lunga notte uggiosa genovese, Daniele 67, arriveranno anche il gruppo che segnali nel tuo messaggio, Daniele da Firenze, Fabio, Mary e Stefi, ancora sveglie per voi, insomma davvero tantissimi anche questa notte. Daniele da Pisa, da Genova, Ale for Roses e Marco da Pisa ancora una volta. Riprenderemo con i messaggi, ho anche tantissime mail che abbiamo archiviato, però ovviamente è importante ripartire con la musica. Eravamo in Unplugged, quindi unplugged. Usciamo dall'Unplugged. Torniamo a schiacciare il piede sull'acceleratore con un altro grande amico di Rock FM che è venuto più volte negli studi, l'abbiamo anche sentito via telefono, io ricordo personalmente di averlo intervistato via telefono. Stiamo parlando di Blackie Lawless e dei suoi Wasp, che ovviamente in questa nottata non potevano mancare. Allora l'album che abbiamo preso in considerazione è The Last Command, la canzone che vi faccio ascoltare è The Fistful of Diamonds. Soviet Union Bank posted strong second quarter earnings despite increased loan loss reserves. JP Morgan had a 52% gain while Chase Manhattan's profit was 45%. Adding fresh ammunition to his 8-month Just insane. study a 1.4 strong economy, the strong dollar. La sua voce è davvero inconfondibile, la voce sofferta, quella di Blackie Lawless con gli Wasp, Fistful of Diamonds, era la canzone che vi avevo appena fatto ascoltare, l'album, come dicevo, era The Last Command. Noi continuiamo a combattere il rave party sotto di noi. Sì, ma... perché qui c'è, oltre al rave, c'è anche il Festival della Foca, perché ho detto, non mi ero accorto. Ma nel senso di viva la foca? Esatto, perché c'è questo locale. Non guardare, Marco. Non guardo. Però anche noi un po' di foca, perché la prossima è una voce, la prima voce femminile della serata, visto che mi è stato anche richiesto, è il primo album di questa band che ottennero un contratto con una piccola etichetta di metal belga, che esiste tuttora, ogni tanto stampano ancora album, la Mausoleum Records. La band arriva dalla Germania, capitanata proprio dalla piccola ma bella tosta sana Doro Pesce. Sì, ecco, la mazzone delle vimeta. Esatto, quindi il suo gruppo all'epoca si chiamava Warlock, il gruppo con cui militava, naturalmente c'erano altri quattro maschietti, lei è la cantante. L'album venne pubblicato nel 1984, si intitolava Burning the Witches, puro speed metal, questa è Sign of Satan. We'll be right back. Bella tosta, eh? Brava, brava, bello speed metal dal primissimo lavoro di Doro e Warlock con le note di Sign of Satan. Germania femminile, Germania maschile. Qui potremmo dire o Scorpions, che ci saranno, oppure gli Asset. Poi ce ne sono un sacco di altre band, ma però quelle due più famose al mondo, magari più gli Scorpions, che non la prossima band capitanata da Udo Dirk Schneider. La formazione è quella degli Asset e andiamo ad ascoltare un brano che sia io che Max eravamo in sintonia. Questa sera proponiamo questa canzone. Brividi, ricorderà tanti anni che non la ascoltavo. Tra parentesi, questa coppia che ho è con una copertina completamente differente rispetto a quelle generalmente pubblicate. 1983 mi dà con la data dell'album, questa Restless and Wild, la formazione quella degli Asset. Sì, grande energia veramente questo brano, cioè ti dà troppa energia. È troppo carico. È troppo carico, soprattutto peccato che si siano sciolti ormai da diversi anni, anche se si erano riuniti per un tour, e poi Udo, il leader, per fortuna, che è un grande amico anche di Rock FM, sì, perché sì, è venuto in un'intervista diverse volte. L'ultimo album Master Cuter, e prosegue almeno la sua attività, un qualcosa, uno spirito rimane degli Erset, vive band, ancora, sì. Bene, allora, speed metal bello potente, rivoltiamo pagina, andiamo in Norvegia, no, andiamo prima da un'altra band abbandoniamo. non molto nota, ma perché ha inciso pochissimo, se non sbaglio. Sì, pochissimo, tra l'altro per una motivazione molto, molto particolare. Abbandoniamo, come dicevo, il vecchio continente europeo per tornare negli Stati Uniti. Stiamo parlando degli Steel Heart, questa è la formazione che vi sto per far ascoltare. Dicevamo di questa loro carriera relativamente breve, dovuta a un brutto incidente che purtroppo colpì il loro cantante, un'altra di quelle ugole abbastanza riconoscibili e potentissime, che purtroppo durante un concerto abbia un problema, la struttura che reggeva le luci che illuminavano appunto il concerto degli Steel Heart per un problema è crollata e lo ha colpito in testa, e questo lo ha ovviamente menomato nella maniera immediata, e poi ha purtroppo così continuato a portare dei segni nella sua vita privata, e questo ovviamente ha portato allo scioglimento della band. Un vero peccato, perché comunque erano partiti con il piede giusto, in America erano riusciti subito a vendere molti molti dischi, c'era un grande airplay sulle radio, il video veniva trasmesso anche e grazie soprattutto al fatto che c'erano un paio di lenti in questo album, che, come al solito sono molto appetibili anche per chi magari non è prettamente interessato al loro genere musicale. Ovviamente non vi faremo ascoltare questi due lenti, che tra l'altro sono anche presenti nella nostra programmazione qui su Rock FM, ma vi faccio ascoltare la canzone che apriva questo loro album omonimo. Tra l'altro l'album si chiamava proprio come loro, Steel Heart. La canzone che lo apriva si intitolava Love Ain't Easy. We'll be right back. è in Ise, questi sono gli Still Art. È una bella ugola, eh? Senti come urlava. Tra l'altro, per onore di cronaca, è giusto citare anche il nome del sfortunato cantante delle Still Art, degli Still Art, anzi, ovvero Michael Matievich, una voce che ai tempi, ricordo quando uscì questo album, venne immediatamente uno dei tanti motivi per cui si creò grande attenzione attorno alla band, era proprio questa vocalità molto estesa, toni molto alti, acuti, potentissimi, che caratterizzavano il loro suono. Love Ain't Easy era la canzone che apriva questo loro album omonimo. C'erano anche gli Still Art nel nostro speciale Hard and Heavy Night. Abbiamo anche scoperto che il produttore esecutivo era Bruce Dickinson, come il prezzemolo dappertutto, pensate. Che era loro logo roico, lo sapevamo. Esatto. Tendesse a infilarsi in tutti gli angoli. Pure quello. Abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto anche quello. Andiamo questa volta, abbandoniamo l'America, qualcosa di americano c'è, anche se ritorniamo in Europa con la Norvegia. Quando si parla di Norvegia, volevo portare il primo album cantato in lingua originale norvegese, ma non mi sembrava il caso, anche perché so che poi il nostro amico Luca, con le cose magari un po' strane dei paesi nordici o scandinavi, o scandinavi che dir si vuole, ci metterà qualcosa. No, non hai portato nulla, niente, solo i Mayhem, però qualcosa c'era. Quindi andiamo alla formazione dei TNT. TNT, perché il primo album col primo cantante è cantato in lingua madre, non so quante copie abbiamo venduto eccetera, e poi qualcosa è cambiato. È arrivato un cantante americano, giusto? Sì, esatto, è arrivato un cantante americano, Tony Arnell. Tony Arnell, che viene molto apprezzato, amato dal nostro buon Max De Rio, che ha portato direttamente lui. Entrambi abbiamo portato degli album dei TNT senza saperlo. Io sto esagerando, sto esagerando sul versante ugoli, in effetti, perdonate, ma è un po' una deformazione quasi di passione. No, non fare quei gestacci, perché non è il caso tu li faccia, caro Wichi. Allora, parliamo dei TNT e dei grandi Tony Arnell. Esatto. Voce americana, e andremo a prendere in osservazione, anzi ascolteremo in effetti questo album che si intitolava Intuition, un album che in effetti rispetto ai precedenti dava una svolta decisamente più pop, più commerciale, c'erano sonorità, nonostante rimanesse presente l'impatto forte chitarristico del gruppo. Questo album era sicuramente molto molto molto più commerciale rispetto al passato. In ogni caso c'erano dei brani molto belli, come questo che vi faccio ascoltare, che era il brano che lo apriva e si intitolava Caught Between the Tiger. Your best tonight, chase your dreams in flight, hold your fire. Tigers arrivano dalla Norvegia, anche se, come vi dicevamo, il loro cantante Tony Harnell è americano. Due i fenomeni all'interno di questa band, non solo Tony Harnell con questa sua voce potentissima e estesissima, Ronnie Letecro alla chitarra, un po' influenzato da Eddie, però molto influenzato, però con uno stile molto molto molto particolare, strano, con molti così degli stacchi davvero molto personali, che hanno reso importante quindi questa band, tra l'altro ancora in attività dopo lunghi anni di silenzio. Si sono riformati, Tony Harnell aveva dato vita anche al progetto Starbreaker, lo ricorderete, che abbiamo anche trasmesso qui a Rock FM, però sembra che abbiano ritrovato il gusto e la voglia di suonare ancora insieme, proprio con la denominazione di TNT. Di TNT, tra parentesi, l'etichetta italiana, la Frontiers Record, quindi vero, un applauso, perché loro stanno seguendo da anni e anni un sacco di queste band. Abbandoniamo l'Europa, andiamo in America. In America, anche se in questa band uno svedese all'inizio era presente, lo svedese è uno degli altri chitarristi più amati, cioè Malmsteen, che diede il via a questa band chiamata Alcatraz. Alcatraz, sì, una band trampolino per i chitarristi, possiamo definirla. Infatti era un super gruppo, alla voce c'era Graham Bonnet e alla chitarra per il primo album c'era Sua Maestà, lo svedese Yngwie Malmsteen, Cambiare, esatto. Di solito è lui che li allontana. No, esatto. L'ha mandato via. Esatto, via, e poi intraprenderà una grandissima carriera che tutti conoscono. Ma il suo sostituto che arriva? Che arriva? Dalla band di Frank Zappa arriva Steve Vai. Il grandissimo. Steve Vai, un altro che ha dato supporto in un album in studio, un album dal vivo, perché questa band ha tre album in studio e un live. E anche lui però dopo lascerà la band e anche lui intraprenderà una bellissima carriera solista, ormai infatti anche lui è famosissimo. Uscirà un terzo album con un altro chitarrista che però non ha avuto successo e alla fine la band si scioglierà. Come succede per molte. Dall'album Disturbing the Peace, quindi con Graham Bonnet alla voce, Steve Vai alle chitarre, poi c'è anche Gary Shee e Jimmy Valdo che arrivavano dai New England, un super gruppone prodotto da Eddie Kramer. Li andiamo ad ascoltare con God Blessed Video. Mega gruppone, quindi, questa super band degli Alcatraz. Se non la conoscevate, beh, qui c'è Graham Bonnet e Steve Vai. Bastano questi due nomi, cari amici.